YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. La terza ora del sabato del villaggio che diventa RadioTube anche per questa settimana e anche per la prossima. Anche per la prossima, che sì, è la vigilia di Natale. La vigilia di Natale, comunque noi teniamo compagnia. Con il cappello da Babbo Natale. Sì, metto, senti, metto il maglioncino di Natale, un po' di maglioncini quello, di Natale. Quelli tipici con la renna verde, sì, con sì, la sì. renna rossa, ce l'ho pazzesco. Con Babbo Natale che telefona, davvero? Ho la felpa con la renna, sì sì, li ho tutti. Che bello. Mi piacciono tanto, ho il cappello con le corna. No, tutto, non ti fai mancare niente. No, senza, senti, vergogna. Che puntata siamo? Chi lo sa? Siamo alla quindicesima della quarta stagione. Sono tantissime, chissà in totale quante saranno. Dunque, et Marta Cagnola, et di Bellasio, hashtag RadioTube. Parliamo della televisione vista su internet alla radio. Sì, mi piace, e mi piace come... In questa nuova scelta editoriale delle ultime puntate, di solito apriamo con un tema della settimana, no? Sì, ma... La scorsa settimana erano le cadute. Sì, viene un po' spontaneo, esatto. Perché questa è stata la settimana degli addii. Degli addii, invece, degli addii, quegli addii che sono un po' melanconici, un po' rabbiosi, un po' veri, un po' meno veri. Allora, il io partirei, partirei con un collega che io stimo molto, abbiamo cercato di averlo da sempre ospite. Sì, ci abbiamo provato, sì. Ci abbiamo provato tantissimo, non ci siamo mai riusciti, perché effettivamente la situazione era è sempre stata magari un po'... adesso. Eh sì, allora, io sono una grande fan di Gianluca Semprini, ho tifato molto per lui. Penso che non fosse giusta la formula, alcune cose non hanno funzionato, ma secondo me lui è bravissimo. E diciamo ha salutato in modo un po', insomma, cioè non è stato un saluto arrivederci, ringrazio i miei collaboratori, un saluto incisivo, è un saluto con dei sassolini tirati fuori dalla scarpa di Politics. Sentiamo. E c'è un'altra buona notizia, Politics chiude in anticipo, purtroppo. Come si diceva a Sanremo, comunque vada sarà un successo, invece in questo caso è stato un fallimento purtroppo e la colpa è soprattutto mia, quindi mi prendo la responsabilità. Vi avevo promesso in uno spot tra il serio e il faceto durante quest'estate che a domande precise avrei ottenuto risposte precise dai politici. Non ci sono riuscito e ovviamente mi avete punito in termini di share. E poi ha parlato anche, insomma, dell'ambiente che non era proprio esattamente come io posso aspettato. Dire una cosa, al di là dell'ambiente, io penso che la formula fosse anche abbastanza giusta, soltanto che la prima serata della Rai ha bisogno di un conduttore molto famoso. Allora Gianluca Semprini, che è bravissimo, andava su Sky, faceva il famoso dibattito all'americana, non era così noto al grande pubblico. Forse in questo sì bisognava tenere il punto un po' più di tempo per far sì che diventasse sì, noto, infatti, come gli anche altri. Floris quando ha iniziato non era brava, notissimo, e brava. Poi è riuscito a trovare la strada. Ci vuole un po' di tempo, ecco. Chi ha avuto tanto tempo per diventare nota, notissima, e quindi adesso forse ha detto che non si è capito bene. La Raffa. Raffa nazionale. Allora, cioè... domenica era ospite della D'Urso e già questo dice qualcosa. Perché non era ospite di Rai 1, era dal nemico. Vabbè, dal nemico, dalla concorrenza, vabbè. E ha detto che basta. Ha detto che basta. Allora, noi sentiamo cosa ha detto Barbara D'Urso, ecco qua. Io ho avuto tantissimo dalla vita, tantissimo dalla televisione, è ora di lasciare il passo alla nuova generazione. Il mio sogno era di lanciare Showgirl e Showman. E quindi tocca a loro adesso. Io ho avuto tanto, vi ringrazio, vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Grazie, grazie. Ciao, di amore. Allora sembra proprio che... Sembra dica, proprio ciao. Che ciao, andate avanti voi, nuove generazioni tipo la D'Urso. Vabbè, dai, fammi fare. Ma a Natale sono tutti più buoni tu, ma no? Non è ancora Natale, lasciamo okay. Nuove generazioni, la D'Urso, che ne so, la Cuccarini, Ether Parisi, nuove ma generazioni che ti, ma di showgirl. Ma di che ti piacciono, no? Ma di che però ti piacciono? Ma, cioè, guarda, la D'Urso tantissimo, ecco. più delle altre due. Però insomma, non è proprio che la giovinezza e le nuove generazioni siano in questo momento, soprattutto in Rai, comunque, al centro. Abbiamo parlato appunto del povero Semprini che già comunque sì. No, comunque forse non lascia, forse non è proprio vero, pareva, cioè sì, lascio, però se arriva un progetto interessante dico sì. Quindi lascio, però potete proprio convincermi, se proprio insistete, non, se proprio, se proprio insistete resto. Vabbè. Invece c'è un altro passaggio, questa è anche la settimana dei passaggi, perché Gramellini che va dalla Stampa al Corriere, e tu mi hai detto che anche... Sì, pare che se ne vada alla 7. Dalla Rai. Adesso insomma, io non so se è ufficiale. Però no, certo che sarebbe clamoroso, eh? Beh, diciamo, l'editore, diciamo, hanno qualcosa in comune la 7 e il Corriere. È quello, però certo, dopo una prima serata di Rai 3, che è un grande traguardo, le parole. Vabbè, insomma, non lo so, vigileremo così con la nostra consueta curiosità. Lascia la 7. Non è una notizia, si sapeva che sarebbe andato a Discovery Maurizio Crozza. Però... E quindi la cagnola è disperata, perché noi a RadioTube non potremo più mandare in onda niente, visto che era una tassa, no? Lo manderemo la tassa Crozza. Con quello che fa su Discovery, perché a me comunque piace, perché Crozza è Crozza. Vabbè, sentiamo come ha salutato, ecco qua. Ciao Giova, buone vacanze a tutti, noi ci rivediamo... Non so nemmeno se ci rivediamo. Boh, vabbè. Intanto buon Natale, Giova. Ciao a tutti. Vabbè, magari poi trovano un accordo e rimane. Lo discoveremo anche... solo vivendo. No, chiedo scusa. Dobbiamo veramente andare avanti fino alle 6 dopo questa battuta. No. Non posso andare. Chiedo scusa ai radioascoltatori, me ne vergogno. Meno male. Un'altra persona, passiamo subito. Un'altra persona che ha lasciato, sì, che non c'è, proprio aveva promesso di farlo e ha mantenuto la sua promessa. Un'altra persona che aveva detto: se non succede una determinata cosa, al referendum. Che non è successa, detto, No, è quello che l'hanno detto. Vabbè, detto raccontami bene. Vediamo se indovini chi l'aveva detto e proprio l'ha mantenuto. Senti la voce. Se non vince, sì, anche lei lascia la politica, o lascia sicuramente, ci sarebbe una crisi di governo, lascerebbe tutto. Noi abbiamo già detto, e ovviamente lo ha detto il Presidente del Consiglio, ma vale anche per me, per quanto riguarda il mio impegno ovviamente in queste riforme costituzionali, che se il lavoro che abbiamo fatto. Se, ma io ci tengo a tornare sui contenuti, perché non è un voto di simpatia su di me, su Renzi o sul governo. I cittadini su quello saranno chiamati a votare nel 2018, se tutto va bene come io credo a ottobre. Ma sono chiamati a decidere se vogliamo tenere il Parlamento più numeroso e costoso dell'Occidente, o finalmente vogliamo dopo 30 anni essere concreti. La sua risposta, allora, però, però se i cittadini, che non avete un piano B, se i cittadini, no, noi ce l'abbiamo il piano idea. B, ci saranno altri. Noi l'abbiamo già detto, se il referendum dovesse andare male, noi non continueremo il nostro progetto politico. Ma era la Boschi? Sì. Infatti. Però c'è qualcosa che non mi torna. Vabbè, allora. Ma dai, questo populismo facile di dire aveva promesso, invece anche non è più ministro. Aveva promesso invece. Sì, ma infatti non è più ministro. Alla fine l'unico che l'ha fatto davvero finora. È Matteo, almeno in parte, vediamo sul resto, però almeno in parte. Allora, sta a Pontassieve, guida, porta i figli, fa le cose, ha detto che ha fatto una roba di emergenza, un blitz alla COP per fare la spesa, ha detto, non hai sentito? Interessantissimo. No, racconta la sua vita di come si dice di un uomo? Desperate Matteo Casalingo. Però, visto che Crozza mi faceva benissimo Renzi, chissà Crozza come mi fa Gentiloni. Brava, lo scopriamo lo vediamo dopo il traffico. Dai, brava. Dopo il traffico lo facciamo, a tra poco. Radio Tube. Allora, lo abbiamo detto prima del traffico, abbiamo detto che Crozza, che io amo particolarmente, ogni volta Daniele lo sottolinea, faceva benissimo Renzi, ma lo farà bene Gentiloni? La pettinatura soprattutto, era la parrucca perfetta, di era Gentiloni. Perfetta. Senti, io non l'ho sentito, quindi non lo sento per la prima volta. Allora sentilo qua. Sì, no, il colloquio è durato al massimo 5 minuti. Ma come 5 minuti? No, è l'anestesia che è durata tanto. Quale anestesia? Ma che dici? Quale anestesia? L'anestesia perché... Ma di cosa parla? Che anestesia? Questo proprio è lì che mi sono imposto, ho chiesto proprio io l'anestesia. Ma per cosa? Non potevano mica impiantarmelo da sveglio. Ma cosa? No, perché... Ma niente, ma il Renzmaker. Il? Il Rainsmaker è un dispositivo, se potete vedere qui, vede, è un dispositivo, vede, è questa lucina qui, è un dispositivo che mi blocca, che mi blocca l'attività cardiaca. Se dico qualcosa che non piace a Renzi, addirittura? Su questo devo dire che Renzi è stato chiaro. Tu non, non dare fastidio a me, io non fermo il cuore a te. E poi devo dire che quando si è messo la parrucca e si è guardato nel monitor ha detto oddio sono uguale, si è spaventato. Vabbè. La parrucca era facile. Joe era proprio, moriva da ridere. Joe moriva da ridere. Allora parliamo di politica. Parliamo di politica, sono successe tante cose, tutti che cambiano, succede tutto, un rimescalamento di conti continuo, di conti, ho detto sì. Con chi ne parliamo? Allora, io direi che, visto che ho bisogno di saperne qualcosa di più, e siccome lei in questi giorni ha già poco da fare per il suo giornale, noi la disturbiamo il sabato pomeriggio per sapere un po' di cose nuove e interessanti da lei. È un'amica, scrive su Repubblica, è bravissima, si chiama Annalisa Cuzzocrea ed è con noi. Ciao Annalisa. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Allora, abbiamo detto in questi giorni non è successo niente, tu sei lì, no, tranquilla, perché, ti riposi. No, però diciamolo, è la principale scuppettara del Movimento 5 Stelle. Scuppettara? Non si può dire scuppettara? Ma non nel mio caso, dai Daniele, non esageriamo. Beh, in passato alla grande. Allora, alcuni grillini in rete le dicono di molto peggio. Ho capito, ma questo dimostra altro che scuppettara. Fatevi un giro. Esatto, in rete si trova un po' di tutto, la povera Annalisa. Allora, Daniele. Ma intanto no, però prima partiamo con ordine. Il cambio del primo ministro dal punto di vista così della comunicazione, del clima, sui social. Intanto il primo ministro che mi segue, io sono molto fiero di questa cosa. Vedi, però, me ne vanto. Sì, sì. Certo. Che cosa è successo? Mi sa che segue anche me. Vedi? Mi sa. Che cosa è cambiato? Mi ha smesso. Ma è cambiato tutto, Daniele, chi se lo aspettava? È cambiato tutto in un passaggio rapidissimo, probabilmente più rapido di quello che tutti noi osservatori della politica avremmo mai immaginato, anche sapendo che questo referendum segnava un passaggio molto importante nella politica. Non ci aspettavamo appunto che all'improvviso ci ritrovavamo Paolo Gentiloni, il fedelissimo di Renzi, l'unico dirigente del PD che lo ha seguito fin da subito, ma appunto un po' come lo dipinge Crosca, mettendosi dietro di lui, un passo indietro, e invece è diventato il Presidente del Consiglio. E adesso Renzi sta riorganizzando le truppe, ha molto da fare nel PD per capire se ancora il PD è con lui e se ancora può giocarsi la battaglia del 40%, no? Lui pensa che quel 40% possa essere suo, e il 40% per un solo partito è una gran bella cosa, però forse è l'ennesima scommessa di Renzi e temo che sia l'ennesimo azzardo. Si prepara la nuova battaglia sul referendum sul Jobs Act, sull'articolo 18. Tu Daniele, immaginati il referendum sull'articolo 18 poco prima del voto. Che cosa significherebbe? Cioè, quello è un referendum sul Jobs Act che è davvero è molto facile che insomma venga rigettato il Jobs Act. Non è sicuramente una riforma amata, non è una riforma che è andata neanche come Renzi sperava, tanto che al ministro Poletti è scappata la frase, no? Infatti dobbiamo fare prima prima del referendum, altrimenti ovvio. Addirittura i 5 Stelle hanno proposto di farlo lo stesso giorno, hanno trovato un lontano precedente in non so quale governo, caduta di governo, per cui si potrebbe fare il votare alle politiche lo stesso giorno di un referendum. A quel punto proprio per Renzi non sarebbe sicuramente una passeggiata, quindi vedo molta molta confusione in quel campo, molta difficoltà. Ma almeno per i 5 Stelle è tutto tranquillo, tutto a posto, l'alternativa. Ma meno male che almeno si mettono d'accordo, come dire, si mettono tutti nei casini, scusatemi il termine, per cui almeno non nessuno ha vita facile. Io vorrei farti sentire per esempio quello che viene definito una delle possibili alternative, no, di Renzi. Attenti a fare ironici. No, ma un astro nascente, uno straordinario comunicatore come Alessandro Di Battista. Senti che proprio come spontaneo, senti. Perché grazie al Movimento 5 Stelle che qua non c'è Noi abbiamo incanalato la partecipazione su percorsi democratici belli. No, vabbè, allora io ti avevo chiesto di non fare ironia. L'argomento è serio ed è per questo che veramente chiedo ad Annalisa di aiutarci a capire la cosa. Il Movimento 5 Stelle aveva una cosa di forte che sembrava spontaneo, cioè sembrava spontaneo nello streaming, nell'organizzazione, nei meetup, nelle cose. Io non so se già allora era tutto pianificato e costruito. Certo, questa spontaneità si sta un po' perdendo. Beh, si è un po' persa, è un allarme che ha lanciato lo stesso Roberto Fico, se ricordi, al loro raduno a Palermo, ha detto ci stiamo facendo mangiare dalla comunicazione, siamo diventati più comunicazione che altro, dobbiamo tornare alle scelte condivise, basta il dippismo, insomma è un allarme che qualcuno nei 5 Stelle ha lanciato perché questo problema c'è. Penso che sono diventati molto abili nella comunicazione. Voi lo prendete in giro Alessandro Di Battista, però io vi assicuro che l'ho seguito quest'estate nel suo tour in moto, nel cosiddetto. No, io sul tour l'ho anche difeso, perché quella era un'iniziativa. No, ma lui è molto plateale e davvero ai nostri occhi, madonna mia quanto recita, però ha un consenso popolare pazzesco. Con loro come si riesce a lavorare da cronisti, a seguirli insomma? Ma guarda, dipende, nel senso che io ho un buon rapporto con tutti perché loro mi riconoscono di non inventarmi nulla, cioè scrivo delle cose che spesso loro non vorrebbero che io scrivessi, però ho intervistato tra l'altro Alessandro Di Battista qualche giorno fa da Formiglia a Piazza Pulita e non ha il minimo problema. E il punto è che loro hanno una comunicazione molto accentrata, c'è il divieto di parlare con i giornalisti a meno che non sia stato dato il permesso dai capi della comunicazione, ogni intervista deve passare dai capi della comunicazione, quindi è molto complicato lavorare con loro perché tantissime volte se ti danno una notizia che è davvero una notizia, una lettura che è davvero interessante, ti chiedono, ti pregano di non mettergliela in bocca, di non metterla tra virgolette, altrimenti potrebbero avere problemi perché vengono davvero redarguiti e insomma ci sono persone che per quello che hanno detto in quel momento sono state sospese, espulse, per cui è complicato. Dopodiché con Alessandro Di Battista ha un rapporto di rispetto reciproco, l'ho seguito, l'ho raccontato, non condivido molte delle cose che dice, però le racconto e nel senso si sono abituati anche loro, no? All'inizio erano più ostili, più diffidenti, ti venivano sempre a dire ah perché tu, il tuo giornale, il tuo editore, adesso capiscono che noi facciamo il nostro lavoro, sì. I più intelligenti di loro. Dopodiché sai quello che succede sui social. Sui social c'è sempre la gente molto molto arrabbiata che tende a prendere di mira il bersaglio di turno. Io faccio una cosa, quando vado in televisione a intervistare qualcuno di loro, ci vado poco, però quando vado poi non guardo Twitter per una settimana. Hai ragione, ti capisco perfettamente. No, ma ti capisco. Però un pezzettino anche della Raggi dovremmo pur sentire, è stata una settimana, diciamo, una settimana piuttosto tosta. Intensa, con un video che ha fatto molto scalpore. Sì, perché vabbè, ha chiamato le parodie, appunto parlavamo prima della spontaneità un po' persa, senti per esempio qui, senti? Ho appena finito una riunione di maggioranza, ho comunicato ai miei consiglieri di aver accettato le dimissioni dell'assessore Paola Muraro. La stessa mi ha comunicato infatti di aver ricevuto da poco un avviso di garanzia per presunte violazioni del testo unico ambientale. Non sono entrata nel merito dell'avviso, ho accettato le sue dimissioni e ho assunto le deleghe alla sostenibilità ambientale. Ritengo importante infatti dare continuità all'azione amministrativa sia nel risanamento di Ama che nel rilancio di tutto il settore ambientale. Beh, grandi parodie però di questo video. Qui questo video si riferiva alle dimissioni dell'assessore Mura, poi è successo molto altro, l'arresto di Mara. Però noi siamo fuori dalle questioni giudiziarie. Sì. Ecco, Annalisa, su Roma l'investimento del Movimento 5 Stelle era enorme. A che punto è, diciamo così, della riuscita del progetto Roma del Movimento 5 Stelle? Adesso prima di tutto vi racconto una cosa, che su quel video sono morti da ridere loro stessi, cioè i parlamentari quel giorno non facevano altro che dire ma come le ha fatte quelle riprese? C'è Stefano Vignaroli che era un operatore, ha detto ma gliele facevo io, ma mi dovevano chiamare. E poi invece c'era chi citava appunto la Yoda che su Twitter ha scritto datemi un assessore senza avvisi di garanzia. E rilascio altrimenti, i 15. Appunto, rilascio gli ostaggi, altrimenti faccio male agli ostaggi. Insomma, loro stessi citavano le parodie, se le scambiavano sui telefonini. si chiedevano come fosse stato possibile fare un video del genere. Questo per farvi capire che già nell'aria c'era un allontanamento dallo stile Raggi, che effettivamente li sta mettendo molto molto in difficoltà. Scherzi a parte, quello che sta succedendo a Roma secondo me è molto serio, perché le avvisaglie c'erano tutte, e c'era un sistema molto strano e ambiguo che aveva preso il potere. Tutto questo adesso scoppia in mano a Virginia Raggi e a tutto il Movimento 5 Stelle. Staremo a vedere, vigileremo e continueremo a leggerti. Grazie Annalisa Cuzzocorea, notista politica di Repubblica. Grazie Annalisa, buon lavoro in questi giorni intensi. Grazie, ciao. Grazie mille. Grazie, vorrei godermi il Natale, però vabbè, arriverà. Ciao. Grazie ciao. Annalisa, noi una brevissima pausa breve. Facciamo e sì. Poi saremo ancora insieme con un altro ospite e un sacco di altri. Voltiamo pagina, ma restiamo a Roma. Sì, sì, restiamo a Roma tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. YouTube. Daniele, oggi è il 17 dicembre, sabato 17 dicembre, e sai di chi è il compleanno? È il compleanno di Papa Francesco. È il compleanno di Papa Francesco. Anni. 80 anni. E oggi finalmente lo possiamo festeggiare. È vero, oggi possiamo fare gli auguri. Perché lui qualche giorno fa, senti che cosa ha detto Papa Francesco qualche giorno fa, senti? Ringrazio a tutti voi, gli auguri per il mio prossimo compleanno. Grazie tante. Ma vi dirò una cosa che vi farà ridere. Nella mia terra fare gli auguri in anticipo porta la iela. Veramente. Beh, anche Francesco, da noi, anche da noi, sì. Anche da noi non si fa. Ma oggi è sabato e possiamo farlo. Allora, tra le tante caratteristiche di questo straordinario Papa c'è la capacità di comunicare. Sì. Decisamente. La capacità di comunicare e anche di avere un rapporto straordinario con la stampa. Sì, anche quando ogni tanto gliele dice, perché poi lui sa anche dirgliele. Certo, quando... certo. Un rapporto straordinario con la stampa, ma secondo me soprattutto Papa Francesco è la dimostrazione evidente che non è vero quello che si dice spesso della rete. Cioè che in rete funzionano soltanto i messaggi negativi. Però c'è anche l'altro aspetto della medaglia, cioè c'è. I comunicatori. Quali caratteristiche devono avere per ben comunicare, secondo il Papa? Sai che c'è qualcuno che ha dedicato un libro? I 10 comandamenti, diciamo. Beh, no, non si può dire. Non si può dire, dai, perché non essere, è un po' dissacrante. La comunicazione. Il decalogo del buon comunicatore. È anche il titolo del suo libro, Il decalogo del buon comunicatore secondo Papa Francesco, edito da LDC Smart, un libro molto bello, perché è anche proprio bello da vedere, oh, lo devo bellissimo dire, perché è vedere. Proprio bello. Vero. L'autore è un bravissimo collega della splendida Radio Vaticana, che io ascolto sempre online. E benvenuto a RadioTube ad Alessandro Gisotti. Ciao Alessandro! Ciao. Ciao Marta, ciao Daniele, che piacere, grazie in questa giornata di festa. Che bello, poi un po' di Radio Vaticana, Radio 24 mi piace. È bellissimo, mi bellissimo, piace moltissimo. Bellissimo. Da cosa partiamo, no? Perché allora, l'argomento è tosto. È difficile, tra l'altro io voglio partire un po' da come è nato questo decalogo, perché non è nato per caso, Alessandro. C'è una genesi, un'origine molto bella che ti ha portato a scrivere questo volume? Assolutamente, c'è un'esperienza. Mi era stato chiesto ormai qualche mese fa di parlare un po' della comunicazione di Papa Francesco nel giubileo dei giornalisti a Campobasso, e questo ci dice molto anche, no? Una diocesi comunque, un'area di periferia rispetto alla centralissima Roma, anche sotto il profilo ecclesiale del giubileo. Questa è stata una grande e bella novità che Papa Francesco ha portato al giubileo, quindi non solo a Roma ma un po' in tutto il mondo. E lì mi è stato chiesto di provare a dare qualche buona regola. Il tema era la deontologia, quindi uno è sempre un po' così spaventato quando deve parlare poi a colleghi, c'era l'ordine dei giornalisti della regione di deontologia. Ho detto ma vediamo un po', effettivamente mi sembra che Papa Francesco dia delle buone regole che valgano per tutti, in realtà non solo per i comunicatori professionisti. Io ci sto a questo scherzo che ho scritto un altro decalogo, qualcuno mi ha detto ma te le ricordi a memoria i 10 comandamenti, che già uno fa fatica, anche i buoni cattolici, a ricordarci 10 comandamenti quelli veri, adesso ho dovuto aggiungerne anche altre 10, ma insomma questo per dire che ha uno spirito molto concreto, cioè di dare innanzitutto a me come comunicatore, ma in realtà anche come padre, essere come marito, quindi come comunicatore naturale, come tutti noi siamo, delle buone regole per fare una comunicazione bella che dia appunto spazio alla persona. Buone regole che io mi sento di consigliare ai giornalisti cattolici e ai giornalisti cattolici, perché sono delle regole secondo me straordinarie. Allora, il 22 settembre Papa Francesco ha incontrato il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e lui ha ricordato che il giornalismo, la comunicazione, devono essere sempre uno strumento di costruzione, mai un'arma di distruzione. E questi giornalisti spesso se lo dimenticano, Alessandro? Ma io penso che dobbiamo fare un esame di coscienza. Io ero lì proprio con il Santo Padre a pochi metri da lui mentre parlava in quell'occasione, il 22 settembre, c'era il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, ed effettivamente dobbiamo cogliere la sfida che pone Francesco, strumento di costruzione e non arma di distruzione. E mi piace molto quello che hai detto prima, Marta, cioè se tu vedi queste 10 buone regole non compare mai la parola Gesù o la parola la Chiesa, ma non perché non debba essere quello il contenuto di fondo, ma perché effettivamente Papa Francesco ha la sua grande forza, poi si fa capire, pone delle sfide a tutti, anche ai non credenti, forse addirittura anche più ai non credenti in alcuni casi, e quindi credo che vengano bene queste regole come orientare per esempio le persone verso processi di riconciliazione. Mi chiedo quanto noi giornalisti stiamo attenti a questo, o quanto invece purtroppo a volte anche soffiamo sul fuoco, gettiamo benzina, e perché è brutto dirlo, ma a volte bad news is a good news, no? Una cattiva notizia è una buona notizia. Quanto spazio diamo agli accordi di pace rispetto allo scoppio delle guerre, no? Per dire. Allora, leggo qualche legge del decalogo. Allora, comunicare con tutti e senza esclusione, creare ponti e favorire l'incontro, non spezzare mai la relazione e la comunicazione, attivare un nuovo modo di parlare e di dialogare, orientare le persone verso processi di riconciliazione. E in questo capitolo c'è un'affermazione che a me è piaciuta molto. Un buon comunicatore deve avere pazienza e speranza. Cioè, in un momento in cui tutto va velocissimo, dobbiamo commentare tutto un istante dopo, uscire per primi con la notizia, anche se insomma non è proprio verificatissima, perché altrimenti hai preso un buco. Invece un buon comunicatore deve avere pazienza e speranza. È difficile. Però questo riporta anche in fondo a quello che è il valore quasi sacro, dice Francesco in alcuni suoi interventi, della comunicazione, perché la parola è sacra, la parola contiene angosce, speranze, contiene lacrime e risate, contiene la storia delle persone. Quindi ci fu un'occasione alcuni anni fa, all'inizio del pontificato, in cui il Papa chiese ai giornalisti che incontrava in quella situazione di risvegliare la parola, quindi di considerare che veramente la parola può essere scintilla per dei processi di bene, per una riconquista di dignità delle persone. Pensiamo quante volte usiamo con troppa facilità alcuni termini, clandestino per esempio, cancellando così la storia di disperazione che porta magari dei migranti sulle nostre coste. Ecco, Francesco ci richiama su questo e credo che è una sfida che bisogna accettare, bisogna cogliere per il bene anche della nostra professione. Ecco, io devo dire che siccome poi il Papa è anche un leader culturale che, come dire, incide sulla crescita della società a prescindere se uno è cattolico o non è cattolico, io penso che ci sia stata una rivoluzione grandissima nel suo modo di comunicare, perché noi spesso parliamo di disintermediazione, no? Questa è la società della disintermediazione, che però è una parola brutta e molto spesso incomprensibile. Invece Papa Francesco, con l'utilizzo della spontaneità, secondo me ha ricordato ai comunicatori che poi la comunicazione è sostanza, cioè se dietro alla comunicazione non c'è una verità, la comunicazione si perde. La spontaneità ha accorciato questa distanza, per cui lui riesce a dire qualunque messaggio in modo così spontaneo, per cui il messaggio è già la verità che lui voleva dire. Non so se Alessandro sei riuscito a spiegarmi e se condividi questa analisi. Non saprei spiegarlo meglio, però provo ad aggiungere anch'io qualche riflessione. Sì, è proprio così, Daniele, perché uno dice: ma com'è che quest'uomo che insomma adesso Oggi è arrivato agli 80 anni, un uomo anziano che è diventato Papa in età decisamente avanzata e che per sua stessa ammissione ha detto ma io il computer non lo usavo a Buenos Aires, in un'intervista pochi mesi prima di diventare Papa, era ancora arcivescovo di Buenos Aires, diceva ma poi quando andrò in pensione vedrò di imparare anche ad usare il computer. E allora com'è che è così straordinariamente efficace, così comunicativo e tutte le cose o quasi che fa diventano virali, come si dice adesso, nei social? Beh, proprio per quello che hai detto te, la spontaneità, la credibilità, questo è un tema fondamentale in Francesco, vince e vince sempre. Qualcuno si poneva il problema perché Francesco non è un pilota e Bergoglio parla ovviamente benissimo l'italiano, parla ovviamente lo spagnolo, però poi non ha una grande dimestichezza con le lingue come alcuni suoi predecessori, ma non importa perché lui stesso è il messaggio è il messaggero, è Francesco stesso, i suoi gesti molto molto spesso non hanno bisogno di parole ma comunicano tantissimo, molto più di qualsiasi parola che si potesse dire. Leggo le ultime regole, salto la sesta perché è quella che ti leggo per ultima. Allora, per comunicare bisogna ascoltare, favorire le relazioni nelle reti sociali, costruire una vera cittadinanza anche in rete, generare una prossimità che si prende cura e, ritorno alla sesta, superare la logica che separa nettamente i peccatori dai giusti. Invece sembra che sui giornali e, ahi noi, in rete, soprattutto in rete, ci sia sempre chi scaglia la prima pietra in ogni momento, e invece questo insegnamento secondo me è fondamentale. Ma guarda Marta, anche tra noi cattolici, lo dico come giornalista al servizio del Papa e della Santa Sede, c'è sempre questa tentazione di separare i peccatori e i giusti, di mettersi un po' nei panni del Padre Eterno. In realtà Francesco sottolinea che appunto uno solo è il giudice, noi dobbiamo vincere questa logica che poi appunto si tramuta, come dicevi tu, in una logica da squadra, da team calcistico, sei della Roma o sei della Lazio, sei dell'Inter o sei del Milan, visto che parlo, come dire, con una radio che ha il cuore a Milano. E questo è un tema che è molto forte, come sappiamo, in particolare sulle questioni della famiglia, Amoris Laetitia, questo meraviglioso documento nato dai due sinodi sulla famiglia di Papa Francesco, proprio fa suo questo tema, cioè supera questa logica di categorizzazione, di separazione tra il giusto e lo sbagliato, tra il peccatore e appunto il perfetto. Attenzione, questo non vuol dire cedere sul tema della verità, ma è uno stile, la comunicazione è misericordiosa non solo per il contenuto ma anche per lo stile, e qui mi piace ripeterlo, lo dico anche nel libro all'inizio, che è Madre Teresa, insomma, no? Un esempio anche di grandissima comunicazione, diceva che è meglio commettere errori con gentilezza che fare tutto bene con scortesia. Lo stile della comunicazione è così importante, no? È verissimo, è verissimo. Io voglio consigliare ancora il tuo libro, Alessandro, Il Decalogo del Buon Comunicatore secondo Papa Francesco. Io lo consiglio, l'ho detto, ai giornalisti cattolici e non cattolici e anche ai lettori, perché secondo me è un buon punto di partenza per capirsi, perché sono delle regole di grandissima umanità. E forse quindi tanti auguri Francesco, che oggi si può? E oggi si può fare gli auguri a Papa Francesco perché oggi compie 80 anni. Grazie ad Alessandro Gisotti di essere stato con noi. Grazie a voi, Alessandro, auguri a Francesco. Ti rivogliamo, sì. Ti chiamiamo ancora, ci permettiamo. A disposizione. Ciao. Grazie ciao. Alessandro, noi ci ritroviamo tra pochissimo. Traffico, poi saremo ancora insieme. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Radio Tube. Ultimo blocco di questo Radio Tube, quanti begli ospiti, quanti argomenti importanti, mica bellissimo, così leggere. Molto bello. Bello, senti, bello. Senti, et Marta Cagnola. Sì, dimmi, et di Bellasio. Sai che ho scoperto dal sabato del villaggio, sì? Siccome ero un po' distratto, che non ha vinto Eva X Factor. È una cosa incredibile, no, ma come ha fatto a non vincere? Ti sei perso la finale. Ma perché davo per scontato che Eva vincesse e quindi non ha, invece hanno vinto i Soul Sisters. Quindi sì, ha vinto Alvaro. E beh, gli abbiamo portato bene, è stato il nostro ospite subito. Grandissimo, gli abbiamo portato bene e vabbè. Comunque vabbè, visto, carina, hai sentito, sei sentito al sabato il villaggio, sì? Abbiamo parlato anche di Sanremo, quindi abbiamo anche tutto il caso e di via, Sanremo. E lì tutto Team Conti l'abbiamo messo nel sabato del villaggio. Esatto, e quindi grandi poi... novità, anche lì a Sanremo, proprio sprizza di giovine ed è tornato un mio mito. Sai che io ti potrei cantare... Oddio, ho paura. Che Zarrillo? Ma no, ma anch'io. Io ti potrei cantare... E proprio io... Va bene. No, è proprio tu. No, no. No, è andiamo proprio avanti. Io che t'amo. Sì, esatto. Andiamo avanti. Ti sto implorando. Andiamo avanti. Avviciniamoci al successo del millennio. Oh, noi stiamo aspettando che torni Rovazzi. Ecco, perché Rovazzi speriamo. Deve tornare a Radio 24. Tu stai tanto. Attento perché quando è venuto gli avevi promesso che avresti fatto la star di YouTube. Magari se l'hai dimenticato. Tu non dirglielo. Allora, Rocco... Sì, cioè diciamolo subito, il figlio di Daniele. Sì, mi ha segnalato questo video dei Pantellas che sono una tua scoperta. Li adoro i Pantellas, grandissimi youtuber, molto simpatici. Cosa hanno fatto? Boh, non lo so, io non ho ancora visto. Già la parodia di Rovazzi, già, sì, senti. Sentiamo. Un problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Ma sei impazzita? No, sono in fissa per Roccazzi. Che Roccazzi, Rovazzi, nonna. E poi anche tu non sei un po' troppo vecchia. Ma tu sei vecchio. Alla nonna è salito andare a comandare. Alla buon'ora, è passato quasi un anno da quella canzone. E allora? E allora non si è aggiornata perché è uscito un nuovo singolo. Cosa? Fatemelo sentire! Ma no, che poi impazzisci e... Ma si può sapere cos'hai? Fatemelo sentire o vi faccio fare la fine di là col can... Ecco, voi ma capite. La nonna dei Pantella, no, sei fortissima! Sì, ma il problema è, infatti, i Rovazzi, che è una persona molto intelligente, se l'è posto, no? Di questi bambini che sentono questi youtuber che dicono queste parolacce. E come facciamo noi papà? Come possiamo fare? Noi mamme, tutti. Cioè, boh. Vabbè, tanto le imparano come sono. Sì, io sono però guarda no, che le ma imparano hai perfettamente comunque. Ragione, lo so, perché poi esistono i fratelli più grandi, i cugini più grandi, lo so. Vabbè, però comunque, è molto Rovazzi divertente. Comunque Rovazzi è un genio, loro sono bravissimi, Rovazzi è un genio. È tutto molto interessante. È tutto molto interessante. Dai, entriamo ancora, come facciamo sempre in queste settimane, sì, verso la fine della trasmissione, clima natalizio. Siamo quindi tutti parolacce più go via. Qualche parolaccina la diciamo. Allora, lo diciamo subito, qualche parolaccina la diciamo. Allontanate dalla radio. Allora, intanto c'è stato questo spot di un panettone che ha creato delle polemiche, ma io non ce la posso fare, no, veramente. Vabbè, sentiamo perché. Per il nostro panettone noi di Motta avremmo potuto usare tofu tritato. Papaya. Seitan. Alga essiccata. E invece no. Lo abbiamo preparato seguendo la nostra ricetta. Da oggi, con bacche di goji! Scherzo. Vabbè, mi sembra uno spot normale. Sì, sembra... Si sono arrabbiati i vegani. Ti pareva. Qua chiamiamo direttamente Cruciani per una consulenza. Perché dicono tofu, seitan? Ma no, ma perché... Dice perché erano degli ingredienti strani. Sì, no, un perché... po' di ironia ragazzi no, no vabbè ragazzi, ma è solo perché erano degli ingredienti strani. Però hanno fatto la parodia. Cioè? Piena di parolacce. Vegan Chronicles. Piena di parolacce, eccola qua. Stai annunciando. Per il nostro panettone abbiamo usato glutine anticeliaco. I cazzo di canditi che fanno cacare a tutti. Cioè, sembrano tipo gomma da masticare, ciancicate, sputate, attaccate sotto un tavolo e riciancicate con la forza. Sì, scusate, sì, lo spot. Panettone. Fanculo, dai, meglio il Pandoro. Vabbè. Io comunque preferisco il Pandoro. Tu preferisci il Pandoro? Sì, assolutamente, in quella annosa questione. In quella annosa questione. Avvimercate, avrete un vostro specifico? No, di Natale no. Io sono democratica. Io sono democratica, una volta al Pandoro, una volta al Panettone. Però il Panettone mi piace coi canditi, mi piace quello tradizionale. A me con le noci. Con le noci. Il panettone con le noci, molto raffinato. Buono, molto chic. Molto raffinato. Il torrone? Mi nausea un po'. E vabbè, no, comunque piace, non entriamo nel specifico. Vabbè, ma manca una settimana. Ma di solito tutto. Chiudiamo con la musica. Allora, oppure con qualcosa di sentimentale, gente che fa piangere. Il più grande di tutti. Sì? James Corden, cioè il conduttore. Spiegamelo. Che si è inventato il Carpool Karaoke, del che quale noi parliamo. È un tuo progetto da anni. Da anni. Solo tu, che in Italia lo anni che mi dici che vuoi fare sta cosa. In Italia lo stanno facendo fare a tutti e nessuno lo fa come lo farei io, perché io sarei molto più brava, ma fa niente. A me non l'hanno mai proposto. Ma poi devi cantare? Ma è per quello, ma io voglio cantare, mica fare niente, voglio solo cantare, certo. Certo che sono. Certo, prima che o poi proviamo, continui a dirlo, ogni tanto. Io voglio cantare. Cantare. James Corden? Sì, Corden. Cosa ha fatto? Ha avuto tanti ospiti durante tutto l'anno. Sì. E a tutti, noi non lo sapevamo, ma ha chiesto di cantare una canzone. Sì. Quindi cosa è successo? Lui ha avuto questa settimana... Sì? Ha avuto questa settimana Mariah Carey. Tra l'altro era succinta, ho visto nel video. Filo. E non mostrava proprio niente. Succinta. Che gli ha fatto cantare? Sprodeva tutto. All I Want for Christmas. Eccolo qua. Ma dopo cantiamo. Mariah Carey parte una carrellata di ospiti da impallidire. Eccoli qua. Oh, who'd have thought? I can't now believe it's it. Christmas. I don't want a lot for Christmas. Just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Perché la gente esulta? Perché questa è Adele. Make my wish come. E poi arrivano Demi Lovato, Nick Jonas, Selena Gomez, Chris Martin, Gwen Stefani, Elton John, Lady Quello Gaga. Quello l'ho riconosciuto anch'io. E cantano tutti All I Want for Christmas di Mariah Carey. Ovviamente il pubblico impazzisce. Sì, no, bisogna guardare il video perché è stupendo. È straordinario. E tu capisci che James Corden già da mesi a tutti faceva cantare un pezzettino della canzone per fare lo speciale di Natale. Questa è televisione. Questa è televisione con la T grandissima. E nel 2017 farà la stessa cosa, ma canterai anche tu, sì, in macchina con lui mentre... Sicuro, perché poi lui ride nel frattempo. Ma sicuro. Ma certo. Deve anche guidare. Poi ballano. Lo faccio a un certo io punto nella ballano. Mia macchinina piccola piccola. Mariah Carey non ci sta. Che cattiva. No, detta da no. te. Detta da una donna. Ma ci vuole... Ma che cattiveria! Ma no, ma lo dici, ma vabbè. Ma no, per la per sì, esatto, che, ho capito che ti riferivi che è un po', a quello. Che è un po' ingombrante. Vabbè, sta puntata per fortuna è finita, fascino. Perché stava prendendo una piega tutt'altro che natalizia. Voi vi rivedete alle 15. Sì, per il sabato prossimo. Comunque nuova puntata, anche se la vigilia di Natale, così vi teniamo compagnia e facciamo io gli auguri. Io ascolto, poi arrivo alle 17, facciamo sì? Radio YouTube, tagliamo con gli auguri il panettone e niente, ci siamo divertiti molto, preparatevi, fate i regali. Ringraziamo Gianmarco Ferronato in regia, ringraziamo Cristian Goldoni in redazione come? E ci ritroviamo sabato prossimo. Ciao. Christmas, Lady Gaga. Done for the year. That's both of us. Oh, Mariah Carey, Merry Christmas. A happy, happy, happy. Mm.